con Laura e Umbi che stanno andando in giro su un motorino Aprilia. Tenerti nelle braccia come una chitarra spagnolo, e così tu mi suoneresti come fossi una chitarra io. Wow, che sacco di bonizzo, sta dicendo Tony Braxton. Comunque romantico, magari romantico, e non ti dà l'impressione di stare su una spiaggia, magari nelle Bahamas o a Cuba o da quelle parti lì? È bella, sì, The Sound of the Summer on Radio Tour. E The Sound of the Summer la potete partecipare tutti voi, è sabato sera alla Pizza Festa alla stazione marittima, perché c'è il concerto gratuito di Niccolò Fabi. E quindi mandiamo tutti quanti la cosa, la tradizione napoletano, e vediamo il grande Niccolò Fabi. Wow, un altro pezzo che fa pensare di stare sulle spiagge a Jamaica. Un po' di reggae, reggae national tickets, però promo just for you adesso, Apple. Ten. Questi sono i giorni della settimana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and on Friday. Craig Davis fa un po' l'insegnante per tutti voi che state studiando la bella lingua inglese. It is a bella lingua because it's la mia lingua. Grande hit per Craig David, 7 days. E adesso accontentiamo ad Alessandra e facciamo sentire il grande Mosco Tse con Parano Vertimas. Allora, 0348 24 38 888, abbiamo ricevuto un messaggio da Nando da Castellammare e dici saluti ai ragazzi del Bar Royal e la mia fidanzata Federica, e oppure a noi, grazie a Nando, oppure ad Eugenio, ciao a te Eugenio. Allora, stiamo ascoltando Negre Cas Cada Vest, il che vuol dire ogni volta, e proprio oggi stavo dicendo a chi? A Ciotola, mi pare, che a Napoli c'è sempre festa, e sai, Cada Vest, ogni volta c'è anche Radio Tour. Radio Tour in Tour. Sabato 16 settembre dalle 10 alle 15 vi aspettiamo per l'addio all'estate 2000, tutti in diretta dal Lido Varcadoro, Marina di Varcaturo, Napoli. Il Sagre dei Funghi, intorno al 21 settembre al 1 ottobre alle Sagre dei Funghi di Cusano Mutri, parapendio, bungee jumping, visite guidate al parco di Petra e Olia, tante altre attività. E sabato 23, serata Radio Tour con Fabio Brescia e DJ Banderas. Dal 21 settembre al 1 ottobre, Radio Tour con la Moving Station e alla Sagre dei Funghi, Cusano Mutri, Benevento. Infoline 0824-862003. Radio Tour in Tour. E un saluto speciale al Bar Europa a Via Bartomeo. E perché? Perché io quando sono in onda bevo un sacco di acqua per la mia voce. Allora mi trovo a Via Bartomeo spesso dopo la trasmissione, e non è che voglio prendere un caffè, eccetera, magari perché è tardi la sera, però ci vado non solo a salutare, però anche ad utilizzare i servizi. Quindi grazie a voi per questo, e voi se siete in zona perché non andate un po' a vedere il bar? Del bar? No, pigliate un caffè. Tu Cristiano bevi l'acqua per leggere il news? Assolutamente no, se mi chiedi se devo andare al bagno prima di leggere, no. Meglio di no. Esatto, dopo le news. Allora adesso il tuo news. Ed è tornato con questo grande new hit Lenny Kravitz, e praticamente questo preannuncia il suo greatest hits che uscirà tra poco. Immagino che sarà nella vostra calzina di Natale di parecchio di voi, perché Lenny Kravitz è un gran bel artista e noi lo suoniamo con molto piacere su Radio Tour, the Moving Station. I'm Fergal Kavanagh, with me al controllo c'è Fiore, e Fiore c'è stato da parecchio ormai, quindi scusa che non ti ho salutato prima. Saluti a tutti voi che ci stanno ascoltando dovunque che siete. Noi riscaldiamo le serate, che è già abbastanza caldo, con il meglio della musica internazionale, italiano, classico, vecchio, nuovo. Infatti adesso facciamo un passaggio nel macchina del tempo. La voce proprio inconfondibile di Mel C. E Mel C non è solo lì, è tornato con sue vecchie colleghi Mel B, Posh Victoria e Baby Emma. Tutti insieme si chiamano The Spice Girls, e questo è il nuovo singolo che non è ancora uscito, però l'hanno rilasciato la radio, e si chiama Holler Holler, grido grido. E comunque è un bel, non lo so, forse è un po' saccherino, un po' liscio, perché quando vedo holler, grido, aspetto qualcosa un po' più, come si dice, ronzo, con un po' più arbo, un po' più rabbia, boh, non lo so. Comunque Spice Girls, forse il girl power è una cosa del passato, non lo so, che ne pensate voi? Alle 0348 24 38 888 potete mandare la vostra richiesta adesso per la vostra opinione, adesso per le ragazze pazze. Ligabue, questo è Ligabue, se viene e si va. Biwet Coracao Tamborro, questo lingua qua un po' di portoghese se non sbaglio, non lo so, l'inglese è la mia forte. Un messaggio che è arrivato al GSM Box, do Valentina, dottor Annunziato, dice Giuseppe ti amo. A Giuseppe Pinto, io conosco una Valentina dottor Nunziato che è fidanzato con un Giuseppe, sei mica tu, vabbè, se sei ciao come va, e se non sei ciao come va, grazie di ascoltare Radio Tour, adesso voi sareste i protagonisti perché dovete fare una telefonata per scegliere il brano che mettiamo in nome vostra, e il momento di Just For You è quasi arrivato, quindi il numero è 081 790 1411. Si chiede what is love, cos'è l'amore, e chi c'ha le soluzioni? Magari l'amore è stare felice con le persone accanto a te, e questo mi sembra una buona definizione. Ok, that's love for you, Giorgia. Come ti vorrei. Connessione telefonica. E adesso accontentiamo Cristoforo. Vogliamo fare qui voleva far sentire un brano per Katia. Questo è Ronan Keating with Life is a Roller Coaster. That's Billy Moore with Up and Down, e l'ho visto in Festival Bar l'altro giorno, e devo dire io non sapevo proprio che era trasvestito, era una cosa che mi ha colpito perché ho visto questa donna e poi cantava con voce di un uomo, ho detto wow, che roba. E poi a proposito dei trasvestiti, c'è un grosso clamore diciamo in Australia adesso perché un quarantina di drag queen sono stati scelti per chiudere la cerimonia a Sydney delle Olimpiadi. Sfileranno nel loro attalitissimo costumi indossando parrucche e tacchi alti durante questa cerimonia conclusiva dei giochi olimpiaci. La notizia è diffusa da un quotidiano di Sydney e ha creato già un po' di clamore, però noi saremo tutti davanti al televisore a vedere sia l'apertura che la chiusura delle Olimpiadi che ci sono per iniziare in questi giorni. Allora il Just For You arriva dopo questo disco, quindi fate una telefonata. Adesso vi regaliamo Anastasia with I'm Out of Love. That's what you need, love, on Radio Tour. Le mani sul vinile come colle, la gente balla. Cenerella bella dalla stella, 12 rintocchi e sei precipitata nella stalla. Il principe cerca bussando di porta in porta, di volta in volta provando per ogni dama la scarpa. Il principe ha bussato, gli apro io la porta, e dopo gli consiglio dove mettersi la scarpa. Portami al party. Non lo so se avete visto il video per questo pezzo di Bagatto, però è proprio divertentissimo, e pure c'ha un sacco di belle signore intorno a lui. Proprio un bel canzone dell'estate, quindi tenete un occhio aperto per quello. E a proposito di party, vi ricordiamo che il 30 settembre Radio Tour compie 2 anni, e noi vogliamo festeggiare con voi gli ascoltatori, quindi praticamente voi dovete prenotare chiamando il 081 790 1411 per venire in studio a festeggiare insieme di noi. Grande questa cosa, come accontentiamo i nostri ascoltatori. Superato il consiglio di Radio Tour per l'estate è Pendium, la moda che ti mette in movimento, e continuiamo ad ascoltare, ad accontentare gli ascoltatori. Per Daniele facciamo sentire Master Blaster di Didi Luck. L'amore, questo è proprio per voi, questo è Lucrezia. E ragazzi, voi che siete italiani siete fortunati perché la più grande parte di voi andate in scuola, se siete ragazze andate in scuola con ragazzi e viceversa. Quello non era così in Irlanda. Comunque io sono andato da tutto maschio, una scuola tutto maschio diciamo, quindi se state cercando l'amore magari quello accanto a te a scuola sarebbe buono. E a proposito della scuola, qualcuno mi ha mandato una poesia di Tennyson, è molto bello, non ha firmato, è molto bello questa poesia. Grazie, non le leggo in onda perché è un po' difficile in inglese anche per me. Radio Tour, the moving station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala Festa dell'Unità fino al 17 settembre tutte le sere, la Festa dell'Unità. Subsonica, Delta V, Naftalina, altri artisti e col cabaret al Cura del Tunnel. Festa dell'Unità fino al 17 settembre da Arnile di Bagnoli, Napoli. Radio ufficiale, Radio Tour. Radio Tour. Radio Tour, la moving station, that's the sound italiano of Plastico with Strani Sintomi. Allora ho ricevuto un messaggio al 034 8 24 38 8 8888, un messaggio di speranza. Questo è Luigi de Castellamare, dice che vuole far sapere a Lisa che i suoi occhi sono la cosa più bella che ho visto da anni e spero che un giorno sia mia e solo mia, cioè quello di Luigi. Fammi vedere i tuoi occhi un attimo, Cristiano. Wow, bellissimo pure le tuoi. Luigi, perché non passi un po' a vedere gli occhi di Cristiani? Perché ci sono tanti... Oh, è sposata, scusa. Io, ma non è vero, ma Ferga, ma perché dai queste notizie false e tendenziose? Ups. Quanti figli hai? No, non ho figli, non sono sposata, ho gli occhi azzurri, ma possono collegarsi sul nostro sito internet e vedono la foto, è inutile farli passare di qua. Comunque, devo spiegare che c'è Fiore qua che è nelle cuffie e sta dicendo tutte queste cose. Che non sapevo, però Luigi per Lisa c'ha gli occhi bellissimo. Adesso facciamo sentire la voce, se non vedere gli occhi di Cristiana. Le ore 20 Radio Tour. You come on over baby. Questo è Cristina Aguilera. È normale, è giusto che lei abbia un nuovo singolo, perché lei è stata una delle presentatori, anzi presentatrice degli MTV Awards negli Stati Uniti la settimana scorsa, e si è fatto a posto, se come si dice, dimostrato sul palco con Britney Spears, perché c'era un bel litigio, almeno una voce che diceva che c'era un bel litigio tra di loro, perciò mettendosi insieme sul palco si vedeva che tutto era a posto tra di loro. Meno male, questo era il nostro new hit. Bon Jovi, e questo è preso dal loro ultimo album Crush, e anche se questo ha venduto un bel po', hanno venduto 2 milioni di copie soltanto in Europa, sembra che il singolo non sta vendendo un granché in Inghilterra, anche se ha speso un casino di soldi per girare il video. Allora ragazzi, io non sono l'unico straniero che lavora in questa stazione, io sono irlandese, però c'è anche un francese che è un po' matticello, vabbè siamo tutti un po' matticello, amiamo tutti quanti Jean-Luc che si trova sempre in situazioni un po' strano. Adesso sentiamo una situazione. Questa volta Jean-Luc cercherà di imbarcarsi su una nave per fare nuove avventure. Ci riuscirà? Sentiamo. Monello 2000. Dove siete? Avete fatto qualche viaggio? Dove siete andati? Allora, praticamente voi potete andare dove volete partecipando ad un concorso, diciamo, un tipo di proposto che ha fatto un sito internet. Il sito vi le segno prima perché è importante questo: www.muoviti.it. Praticamente, se tu hai un'idea bellissima, loro ti pagano tutto. Basta che tu tieni quotidianamente un diario via internet con invio di immagini filmati e riporti via radio, e quindi è bello viaggiare così, solo che magari è un po' come il grande fratello del viaggio, un po' questo impegno non vi piacerà, però ricordi, puoi andare dall'altro lato del mondo. Adesso potete andare vicino al telefono, fare il nostro numero 081 790 14 11 e scegliere un brano, perché il Just For You arriva dopo i 99 posse. Potete vedere il giorno 20 settembre a Maschia Angioino, sarà un bellissimo concerto, loro sono in giro per tutta l'Italia al momento, quindi sarà un sort of homecoming for them. E adesso accontentiamo un'ascoltatrice che ci telefonata. Con il solito telefono. E per Stefania vogliamo far sentire Santana con Maria Maria. Last night stavo... Francesca, è importante, sì, non Francesco. Una voce totalmente diversa, Francesco, immagino. Un messaggio che mi è arrivato, mi fa molto piacere leggere questo che è arrivato al 0348 24 38 888. Ciao Radio Tour, lo speaker di stasera ha una voce sublime. You'll rock the block, dude. Thanks very much. Senti, Nicola Fabi, sabato sera, uno con capelli quasi uguali. Questi sono i Top Loader di Dancing in the Moonlight. Guarda il capelli di lui e di Nicola Fabi. MTV e sabato sera. Alla stazione marittima. A little love salva un po' di amore, non sai mai a quando servirà. E Giuliana ci ha telefonato, e per Fabrizio vuole far sentire Paolo Turci con Questione di Sguardi di DJ Mendes. E dobbiamo ricordarvi tutti quanti della fiesta che si fa il 30 settembre, perché Radio Tour compie 2 anni e ci sarà una grande festa, una big house party. Noi invitiamo a voi di partecipare chiamandoci al 081 790 14 11 per prenotare la vostra presenza. Allora voglio salutare un paio di persone. Prima devo salutare a Mimo e Giuliana che stanno ascoltando, ciao a voi, e pure a Roberto che sta ascoltando, dice dice che è un grande fan di Star Wars, di Guerre Stellari. Allora, un po' di notizie a proposito del prossimo installment di Guerre Stellari, diciamo. Questo è, hanno concluso le riprese a Sydney delle parti interne e adesso le 600 persone che compongono la truppa all'ordine di George Lucas girano in sole 3 settimane gli esterni. Alcune scene saranno realizzate anche qua in Italia. È Natalie Portman che farà la regina Amidala e Hayden Christensen, Anakin Skywalker. Non sono solo amici lì per finta, non si sono baciati, diciamo. Sembra che c'è proprio una storia di amore tra di loro. Ecco, Star Wars, la guerra tra le stelle, l'amore tra le stelle. Insensitive di Jan Arden on Radio Tour. Siamo quasi in chiusura, perciò un paio di messaggi. Mara, stai ascoltando? Perché Giulio ti vuole dire qualcosa. Però se la fidanzata di Giulio sta ascoltando, chiudi gli orecchi. Sono fidanzato, ma mi piace un altro e questo si chiama Mara. Diteglielo. L'ho detto, se ci sono bordelli adesso non c'ha niente di fare con me, eh. E poi è arrivato un altro messaggio, non firmato. Ho avuto una giornata molto dura, vorrei sentire un brano. Ragazzi, dovete telefonare al numero e il prossimo Just For You sarà un programma di Luca. Luca arriva dopo il punto ora con un programma fino alla mezzanotte. Io personalmente adesso me ne vado a mangiare. Io sono Fergal Cavanaugh, con me c'è stato Fiore alla regia e al controllo e noi facciamo un appuntamento domani, non solo radiofonica alle ore 18, sarò in onda sì, però in diretto dal Napoli Pizza Fest, quindi se state vicino alla piazza marittima perché non fate un salto. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro una buona serata. Buona serata, alla prossima. Le 21.